got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto e benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo di migrazione e ci rivolgiamo al pubblico più giovane e cerchiamo anche di dare un consiglio ai genitori all'ascolto che vogliano introdurre i bambini, i ragazzi al tema dell'immigrazione. E quindi parliamo di un libro, L'immigrazione spiegata ai bambini, il viaggio di Amal, edito da Becco Giallo, che è una storia appunto per il pubblico più giovane, che è stata scritta dal giornalista Marco Rizzo. Buonasera Marco. Buonasera, buonasera a tutti. È illustrata da Lelio Bonaccorso, che se avete collaborato insomma alla realizzazione di questa storia, che non è proprio un fumetto, no Marco? No, è più un libro illustrato, se voressimo trovare una categoria più azzeccata. È un romanzo breve, un racconto breve, accompagnato da delle illustrazioni. Tu Marco ti sei occupato anche di spiegare ai bambini un altro tema molto importante e complicato, la mafia. Sì, diciamo che questi libri fanno parte di una trilogia ideale. Il primo è stato La mafia spiegata ai bambini, che è stato pubblicato da Becco Giallo nel 2011, poi pochi anni dopo L'immigrazione spiegata ai bambini e proprio pochi mesi fa invece è uscito L'ecologia spiegata ai bambini. Quindi sono tre temi che mi sono molto cari, tre temi che quasi incidentalmente spesso mi capita di affrontare nelle scuole quando incontro i più piccoli e che quindi ho trovato insomma necessario un po' formalizzare sotto forma di racconto illustrato per fornire uno strumento agli educatori e ai genitori. Marco Rizzo, tu sei un giornalista, uno scrittore siciliano, come sentiamo dal tuo splendido accento, hai parlato di mafia e, come ci dicevi, anche di immigrazione e altro. Ai bambini hai scritto anche altri libri e collaborato con diverse testate. Perché rivolgersi ai bambini per raccontare questi temi così impegnativi? Guarda, dirò qualcosa che forse può sembrare banale o forse no. Io credo che noi adulti siamo un po' schiavi dei nostri preconcetti, dei nostri pregiudizi. Anche le persone che, come me del resto, si credono più aperte mentalmente, alla fine forse cadono in luoghi comuni e appunto in pregiudizi. I bambini sono puri, i bambini hanno l'intelligenza, forse anche l'ingenuità, di scoprire il mondo passo dopo passo e con gli occhi appunto innocenti di chi non ha preconcetti formati magari da retaggi culturali o perché no, da manipolazioni elettorali o politiche. Quindi credo che se questo mondo va un po' migliorato dobbiamo guardare a loro, che sarà una banalità dire sono i cittadini di domani, ma effettivamente sarà così, saranno i cittadini di domani e si spera che siano cittadini migliori di noi, viste le colpe, viste gli errori che la mia generazione, quella che ci ha preceduto, ha avuto in questi anni. Il viaggio di Amal è il viaggio di una migrante un po' particolare, perché Amal è una gattina. Sì, Amal è una gattina e compie questo viaggio assieme ad altri tre animali, un cane, un falco e una capra, che sembra veramente un escamotage narrativo, ma in verità capita che i migranti portano con sé degli animali. Proprio questa gattina, tra l'altro, è ispirata a una gatta che realmente ha accompagnato la propria padroncina dalla Siria fino alla Sicilia un paio di anni fa. Anche quella del falco, che può sembrare la storia più assurda, è ispirata a una storia realmente accaduta di un ragazzo che è sbarcato a Trapani, nella mia città, con un falco al seguito durante la primavera araba in Tunisia, perché di mestiere faceva il falconiere. Quindi per raccontare i drammi di queste persone ai bambini ho provato a usare questo escamotage, questa intermediazione degli animali che solitamente rendono tutto più buffo, più dolce. Però le storie sono storie vere, sono storie che io ho raccolto girando per i centri d'accoglienza della mia città, che ho raccolto grazie anche all'aiuto di altri colleghi giornalisti e che ho appunto pensato che potessero essere utili per raccontare tanti fenomeni della migrazione, perché c'è chi scappa dalla guerra, c'è chi scappa dalla miseria, c'è chi scappa dalla persecuzione religiosa. Quindi gli animali non sono altro che portavoce di quello che hanno subito i loro padroni. Il falco è una storia vera, tra l'altro è anche questa stata è stata utilizzata in un romanzo pubblicato da Navarra Editore. È una storia vera di un ragazzo tunisino che di mestiere faceva il falconiere. È arrivato in Sicilia nel 2013, se non ricordo male, e questo ragazzo ha portato con sé l'unica fonte di ricchezza che avesse. Essendo il suo mestiere quello del falconiere, chiaramente il falco era la sua fonte di reddito, e quindi ha portato con sé questo animale. Quindi vi lascio immaginare la curiosità di vedere sbarcare un ragazzo sull'Aventina con l'animale, con il cappuccio tenuto sul braccio, e chissà quanto deve essere stato buffo per chi ha viaggiato con lui trovarsi in questo contesto. Sono storie che dicono tanto, perché sono storie che parlano alla fine di persone normali, di persone come noi. Quando a volte ci chiediamo chi sono i migranti sono persone come noi che hanno un gatto domestico, un cane domestico, o magari fanno un lavoro apparentemente bizzarro come quello del falconiere, oppure più semplicemente il lavoro del pastore. Sulla rotta balcanica molti migranti che provengono dall'Afghanistan, dal Pakistan, dall'Iraq si muovono portando con sé capre, pecore, bestiame assortito, perché sono la loro unica fonte di ricchezza. Voi avete deciso di raccontare questa storia attraverso gli animali, immagino per avvicinare un po' più i bambini. Il dubbio che mi viene, avendola letta, è che non si addolcisca troppo una questione che è anche drammatica. Beh, viene da sé. Diciamo che il rischio alternativo era di rendere troppo violento e quindi respingente questo libro, perché è un libro pensato per bimbi delle elementari che hanno appena iniziato a leggere, quindi calcare la mano sugli aspetti più truci della migrazione forse avrebbe reso questo strumento invece respingente. Però alla fine l'importante è raccontare le storie, raccontare perché certe persone mollano tutto e decidono di cambiare paese affrontando un viaggio che può essere anche fatale. L'animale alla fine non è altro che un espediente narrativo mediato chiaramente alla realtà, ma che serve a avvicinare i lettori, altrimenti si rischiava che il libro fosse troppo drammatico per i più piccoli. Devo dire che il nostro feedback e poi il nostro polso della situazione lo abbiamo quando giriamo per le scuole, e queste storie comunque lasciano il segno tra i ragazzi più giovani, tra i bambini, soprattutto perché i bambini spesso oggi possono confrontarsi con compagni di classe che magari provengono da quei paesi, dall'Egitto, dalla Siria, dalla Tunisia, e quindi il confronto ce l'hanno in casa, non hanno bisogno a volte nemmeno di immaginare una storia fantastica con animali parlanti. Cani, gatti, uccelli, a volte anche pecore. I marinai e i volontari che in questi anni hanno collaborato al salvataggio e all'accoglienza dei migranti sbarcati sulle nostre coste, a volte hanno assistito anche a queste scene. Giovani donne che portavano nel marsupio il loro gatto, uomini che non avevano avuto il cuore di abbandonare il loro cane, bambini che arrivavano stremati dalla Siria con il canarino nella gabbietta. Sì, perché quando si scappa dalla guerra è normale portare con sé anche i propri affetti e quindi anche gli animali domestici. La prima gatta migrante è stata Mimì, arrivata nel gennaio del 2014 in braccio alla sua padroncina, che l'aveva portata con sé dalla Siria su una carretta del mare. La bimba, meno di 10 anni, l'aveva tenuta con sé per tutto il tempo, fino allo sbarco ad Augusta. Eugenio Zumpano, il comandante della nave San Marco che li aveva soccorsi, annunciò: «Abbiamo a bordo 45 bambini, 23 donne e, per la prima volta, anche un gatto». A giugno 2015, a Lampedusa, assieme a 217 profughi, arrivarono poi Lola, una gattina che fece il viaggio insieme alla sua padrona Sama, di 24 anni, e Joedo, un micino bianco e nero che creò un po' di scompiglio nel porto al momento dello sbarco. Gli uomini della marina inglese e quelli delle nostre motovedette le provarono tutte, ma lui era velocissimo e riusciva sempre a scappare, fino a che i vigili del fuoco riuscirono a prendere l'animale e a metterlo in un trasportino. Ma non ci sono stati solo gatti. Maya, a 20 anni, era partita da Aleppo, in Siria, con il suo cane Pupi ed è stata ritratta in un celebre scatto dalla fotografa Matt Cardi al confine con la Serbia. Anche l'agenzia ONU per i rifugiati UNHCR ha pubblicato la storia di una coppia di siriani arrivati in Macedonia dopo un viaggio di un mese insieme al loro cane Johnny, che hanno detto: «Non avremmo mai potuto abbandonare sotto le bombe». Dopo la quarantena alla quale tutti gli animali sono sottoposti, bisogna ritrovare i padroni. Non è sempre facile. Fairuz, una giovane ragazza siriana, era sbarcata con la sua gatta Mela a Lampedusa il 26 agosto 2014 su un barcone carico di circa 500 persone, fra donne e uomini. La gatta fu messa in quarantena e Fairuz ha dovuto proseguire il suo viaggio verso la Svezia senza poter portare la gatta con sé. Ma grazie all'interessamento dei volontari della LAV di Ragusa, alla fine le due si sono ritrovate e adesso vivono di nuovo insieme in Svezia. Ci fermiamo brevemente e torniamo tra pochissimo. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta... You've got to give a little... Indovina chi viene a cena. Riprendiamo a parlare con Marco Rizzo, giornalista e scrittore che ci accompagna con gli occhi dei ragazzi, dei giovani, attraverso l'immigrazione, su questo grande tema al quale ha dedicato questo libro, che è un libro illustrato, L'immigrazione spiegata ai bambini. Marco, ti sarai chiesto come affrontare un tema così delicato? Hai consultato con i ragazzi? Hai consultato dei pedagogisti, degli insegnanti per farlo? Ho consultato degli insegnanti, ma soprattutto ho consultato dei bambini, perché questo libro, un po' come il precedente, nasce dall'esperienza di presentazioni nelle scuole. La mafia spiegata ai bambini era nato dall'essermi scontrato con la necessità di spiegare il fenomeno mafioso ai bimbi alle elementari, perché nel corso degli anni mi sono trovato a presentare il libro più di successo firmato da me e Lelio, che è Peppino in passato, un giullare contro la mafia, anche ai bimbi più piccoli. E a volte mi trovavo nella difficoltà di spiegare che cosa fosse la mafia prima ancora di spiegare chi era Peppino in passato, che per noi adulti insomma è un eroe, è una figura che conosciamo bene. Per i più piccoli è già più difficile porre le basi del contesto. Allora da quell'esperienza è nato il libro La mafia spiegata ai bambini. Presentando La mafia spiegata ai bambini nelle scuole, incontrando diverse scolaresche in giro per l'Italia, ho visto che uno dei temi su cui più facevano domande, su cui erano più curiosi i bimbi, era proprio l'immigrazione, anche per quello che dicevo prima, cioè perché lo vivevano sulla propria pelle col compagnetto di banco che magari era senegalese, egiziano, cinese. E da quell'esperienza e dalle domande dei bambini e anche dalle proposte, dei suggerimenti degli insegnanti in giro per l'Italia, è nato questo libro, L'immigrazione spiegata ai bambini, perché alla fine con quelle storie io non faccio altro che rispondere alle domande che i bambini mi fanno in quelle occasioni, ad esempio perché partono. Tu sei anche stato, sei reduce da un viaggio nel Mediterraneo, no? Esatto, sì, dopo questa esperienza che diciamo giocata in casa, questa esperienza in giro per gli SPRAR, i CIE, i centri d'accoglienza della mia terra, ho deciso con Lelio Buonaccorso di viaggiare a bordo di una di queste navi delle ONG che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. Pochi mesi fa Feltrinelli ha lanciato una nuova etichetta editoriale che si chiama Feltrinelli Comics, che realizzerà delle graphic novel. Mi hanno chiesto di proporre qualcosa e io devo dire, anche forse un po' all'improvviso, senza pensarci troppo, ho proposto di realizzare un reportage a fumetti da una nave di soccorso, e quindi abbiamo preso contatto con SOS Mediterranee, che è una delle ultime ONG rimaste a operare nella cosiddetta zona SAR, Search and Rescue, che si trova tra la Sicilia e la Libia, e ci siamo imbarcati per 3 settimane lo scorso novembre. Abbiamo vissuto un'esperienza che vi lascio immaginare, insomma è incredibile dal punto di vista umano, dal punto di vista anche giornalistico. Quanto tempo sei stato imbarcato? Siamo stati a bordo circa 20 giorni e abbiamo tra l'altro vissuto dei giorni molto intensi, perché dopo una settimana di maltempo che tra l'altro ci ha costretto fermi in porto a Catania, nei giorni successivi sono arrivati diversi barconi. In 3 giorni l'Aquarius ha fatto 4 soccorsi per un totale di circa 800 persone. Solo l'ultimo soccorso era di un barcone di legno con a bordo 421 persone, tra cui una 90 di donne e una 60 di minori. Questo ci ha permesso chiaramente di venire a contatto con queste storie, di raccontarle, di intervistare di intervistare tante persone, donne, bambini, uomini, anziani, tutte con storie veramente tragiche, toccanti, tutte persone passate dal dramma dei centri di detenzione, come vogliamo chiamarli, che si trovano in Libia, tutti passati sotto le forche caudine di questo grosso traffico di esseri umani che magari parte da paesi ben più lontani che della Libia, come la Costa d'Avorio o l'Eritrea, e che porta queste persone lungo mesi ad attraversare il deserto, ad attraversare la Libia e poi a trovarsi schiavi di questo racket vero e proprio. L'Aquarius è una nave che da circa 2 anni compie queste operazioni di salvataggio. Noi siamo onorati di essere stati lì, di aver risposto con la nostra con il nostro coinvolgimento anche ad alcune delle domande che molti fanno su come operano le ONG. Tutto questo verrà poi trasformato in un reportage a fumetti che uscirà a maggio, sempre appunto come dicevo per Feltrinelli Comics, e che vedrà protagonisti anche noi stessi, perché avendo partecipato in prima persona a questa esperienza ci teniamo a raccontare anche quello che abbiamo vissuto, le nostre sensazioni, le nostre emozioni a bordo. Io credo che l'immigrazione sia un grande tema perché è collegato ad altri grandi temi come quello dell'intolleranza, del razzismo, dell'antifascismo, temi che sembra un po', quando cala l'attenzione su questi temi nel nostro paese succedono sempre cose gravi e strane. L'attenzione degli adulti, conseguentemente quella dei più piccoli, porta a magari tenere dritte le antenne, ad evitare che episodi come quelli che abbiamo, a cui abbiamo assistito in questi mesi avvengano. È grave se in un paese come il nostro un'intimidazione come quella avvenuta a Como nella sede di un'associazione venga lasciata passare come se fosse semplicemente una ragazzata tra 4 ragazzetti balordi. No, è qualcosa di molto più grave, perché dietro c'è una storia, ed è anche la storia purtroppo del nostro paese, la storia di Marzabotto, è la storia di tante vergogne italiane. Quindi queste cose non possono essere lasciate così, non possono essere intese semplicemente come degli scherzi. Questi quindi sono grandi temi legati all'immigrazione, perché spesso l'immigrazione è un po' il tema che racchiude i temi dell'intolleranza, del razzismo, dell'integrazione e così via. E poi credo che un altro grande tema, che anche questo ha diverse ramificazioni, è quello delle mafie. Sembra quasi scontato che io da siciliano mi preoccupi del fatto che sia importante parlare costantemente di mafia, però a volte anche in questo caso l'attenzione cala, sembra quasi che il problema sia risolto perché magari non si sentono più esplodere le bombe o esplodere gli spari, però piano piano si comprende che le mafie si sono adattate al mercato, si sono adattate al tessuto sociale, quindi si muovono silenziosamente, si muovono attraverso le manipolazioni di grandi appalti e così via. Tutto questo chiaramente sporca il mercato, sporca la vita delle persone oneste, sporca a volte anche la politica. E quindi l'attenzione degli adulti e l'attenzione dei più giovani magari un domani potrebbe risparmiarci dispiacere. Prima di lasciarti, tu dicevi che ti sei ispirato, l'hai ricordato anche adesso, delle storie vere. Quello che ci si chiede quando si vedono situazioni in cui un migrante, un profugo attraversa il mare, il deserto con un animale con sé, con un cane, con un gatto, con un falco addirittura, come ci raccontavi, la domanda che la gente in Occidente si pone è perché? Perché in una situazione così difficile complicarsi la vita? Io una risposta me la sono data, la tua qual è? Io questa domanda la faccio ai bambini quando vado nelle scuole e chiedo ai bambini: ma se voi domani doveste partire per un altro paese, magari sapendo di non tornare mai più nel paese da cui provenite, che cosa portereste con voi? Al di là delle risposte più comiche, perché c'è chi mi dice porterei il cellulare, porterei delle mutande di ricambio, porterei dei libri. C'è anche chi mi dice porterei il mio gatto, c'è chi mi dice porterei il mio pappagallino, porterei il mio cane. Quindi la domanda ha la risposta, come spesso accade, nella purezza dei bambini. Grazie a Marco Rizzo per averci raccontato questo suo libro a fumetti, un libro illustrato, L'immigrazione spiegata ai bambini, Il viaggio di Amal, edito da Becco Giallo. Grazie Marco per essere stato con noi stasera, buona serata. Grazie a voi. Non è semplice parlare ai bambini e ai ragazzi di un tema complicato e doloroso come quello della migrazione, di chi scappa dal proprio paese per cercare fortuna altrove o per sfuggire a fame, guerra o persecuzioni. Ma alcuni libri possono aiutarci a farlo. Oltre a L'immigrazione spiegata ai bambini, Il viaggio di Amal, di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, edito da Becco Giallo Editore, ce ne sono molti altri. Ad esempio, un libro che risponde alla domanda «Cosa spinge le persone ad andare via dal loro paese?». Si tratta del libro L'immigrazione a piccoli passi, di Sophie Lamoureux e Guillaume Long, pubblicato da Motta Junior, che parla ai bambini di quanto è difficile adattarsi a una nuova lingua, a una nuova cultura, al cibo diverso e anche alle persone ostili. Il Battello a Vapore ha invece pubblicato un libro che parla in maniera semplice, ma molto veritiera, di un viaggio di una mamma e di una figlia che scappano da un paese in particolare, l'Eritrea. Il libro si intitola Dall'altra parte del mare e l'autrice è Erminia Dell'Oro. Sempre per immedesimarsi nei piccoli migranti, è utile A braccia aperte, storie di bambini migranti, una raccolta a Mondadori di racconti che parlano di bimbi che arrivano da Sarajevo, dalla Siria, dalla Polonia, ma anche dal sud al nord e dal nord in Svizzera. L'Isola del Grano Blu è invece un libro di Giovanni Calvino e parla in maniera specifica delle migrazioni attraverso il mare, e cioè quelle in primo piano in questo periodo, nei telegiornali e sui media. L'espediente di utilizzare gli animali come protagonisti ritorna in La zattera, di Lucia Salemi. Sogni al di là del mare, storie di migranti fra realtà e fantasia, è invece un libro che raccoglie una serie di racconti più o meno romanzati di bambini e ragazzi protagonisti di storie più o meno difficili di emigrazione. Per i ragazzi un po' più grandi può essere interessante la lettura di due romanzi: Nel mare ci sono i coccodrilli, di Fabio Geda, e Non dirmi che hai paura, di Giuseppe Catozzella. Grazie Carmelo Lauricella, la parte tecnica, a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre a quest'ora, sulle frequenze di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.